A volte ci vuole così, qualche momento per ritrovare se stessi, probabilmente. Ma per te la dimensione di trovare se stessi non l'ho mai capito. Chi sono i se stessi? Io cioè trovare se stessi cosa vuol dire? No, intanto dobbiamo capire chi siamo noi stessi, e nessuno, nemmeno Gesù Cristo, sa chi è, perché viviamo di alternanze, di recite, di apparenze, di travestimenti, e quindi io non so chi sono. Io ho scritto un libro, La storia di Neve, dove ci sono omicidi feroci, bestie, io sono anche quello, quindi io non so chi sono. Quindi ritrovare me stesso non posso, perché non so chi sono il me stesso. Io vorrei trovare un po' di tranquillità e di serenità, non me stesso, perché non lo troverò mai me stesso, che non so dove è e chi è. Sempre in questo libro a un certo punto scrivi: sono un fallito che vende parecchio, sì, con un punto interrogativo. Certo, beh, sei molto severo. Ma insomma, sono convinto di questo. Però ci metti un punto interrogativo. No, io devo premettere una cosa: non ho scritto una riga che non ci abbia messo il cuore. Chekhov, che era Chekhov, disse: la mia opera è tutta da bruciare, ma non vi è una sola riga di cui mi debba vergognare. Ora, la mia vanità e il mio desiderio di successo, sopra tutti quanti, vorrei vincere un Nobel al mese, mi porta a non essere mai contento. Ora, qualcuno mi ha detto che i miei libri sono abbastanza buoni, interessanti, ma io non mi però nel panorama letterario italiano io non posso darmi una valutazione, perché farei un peccato di arroganza credendomi io. Cioè, è come quando faccio una scultura, la mia scultura non mi piace, io ho riletto i miei libri, questo mi è piaciucchiato, ma gli altri mi fanno schifo. Quindi chi mi sta attorno e mi gestisce questa vita letteraria, quindi la casa editrice, vorrei capire, e non me l'hanno mai detto. Certo, lo dicono i lettori. I tuoi libri arrivano subito primi in classifica. Ma non vuol dire niente, perché io scrivo libri molto semplici. Ma cos'è allora che ti manca? La critica, il premio letterario? No, il premio letterario ho avuto la legnata, la batosta, e lei lo sa che mi ha intervistato, non so dove eravamo, forse a Venezia. Ecco. Non voglio più parlare di premi perché ho ancora le ossa rotte. No, per esempio la critica ufficiale. Io ci sputo in faccia ai critici di qualsiasi tipo. Lo ripeto, ci sputerei negli occhi. Però se vuoi campare in Italia e nel mondo hai bisogno di questi deciditori. Quindi la critica ufficiale di Corona, non lo so perché, o non valgo un cazzo, non si è mai occupato, ma neanche con una stroncatura, perché se ci fosse una stroncatura, io direi, un critico si è preso la briga di stroncarmi, e quindi sono stato alla sua attenzione. La peggior critica, quella che ti demolisce, è quella di non essere nemmeno, io non esisto in Italia come scrittore, per fortuna ringrazio non Dio, ma ringrazio i miei lettori, che non mi tradiscono mai, e ogni libro ha le quasi 100.000 copie, 80-90, e questo è il bene che mi dà, la mia gratificazione. Ma per il resto io non so se sono un scrittore di valore, se sono un neorealista, se sono un romantico, se sono un decadente, se sono un fallito. So che sono un fallito su tutti i campi della vita: scultura, famiglia, come uomo, come sono un verme. Me lo riconosco e cerco di migliorarmi. Spero, prima di crepare, di fare un passettino. Il premio a cui si riferiva Corona era il Campiello 2014. Era partito, diciamo, come favorito, e invece fu vinto dal giovane Giorgio Fontana. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Quando si parla di libri per ragazzi si pensa generalmente al fantasy oppure al genere romance, soprattutto per le ragazzine. Eppure c'è un altro filone che si sta affermando molto negli ultimi anni, è quello dell'attualità, o comunque di fatti reali, anche storici, realmente avvenuti, che vengono raccontati ai ragazzi in modo diverso, in modo più comprensibile, magari anche più accattivante. Fa parte di questo filone il libro L'estate che conobbi il CE, scritto da Luigi Garlando, pubblicato da Rizzoli. Garlando è un giornalista sportivo e un autore per ragazzi molto affermato, famosa la sua serie di libri Gol, dedicata appunto al calcio. Ma perché ha deciso di, così, raccontare il personaggio di Che Guevara ai più giovani? Sentiamolo. Perché lo vedono e magari per tanti rimane un'immagine vuota, quindi un marchio, e insomma ho provato a riempire questo marchio con un messaggio che secondo me è di grandissima attualità sociale. Qual è il messaggio? Soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più, l'idea è nata proprio rileggendo le lettere del cielo ai figli, e quindi il passaggio quando dice la virtù più grande di un rivoluzionario è quella di sentire l'ingiustizia fatta a qualsiasi uomo in qualsiasi parte del mondo, cioè sentire il dolore degli altri. Oggi vediamo sbarcare i barconi, abbiamo i poveri magari vicini di casa, magari il compagno di classe il cui padre ha perso un posto, e magari sono disgrazie che ci sfiorano ma non le sentiamo nostre. Ecco, la lezione del CE è anche quella di imparare, come diceva lui, a sentire gli schiaffi che prendono gli altri. L'immagine di Che Guevara è diffusissima, appunto la sua iconografia è nota a tutti. È stato un po' distorto anche il suo pensiero, o comunque diffuso in maniera così non veritiera? Ma credo di sì, poi del CE è stato fatto di tutto, quindi a me piaceva, e non c'era insomma ancora una voce magari diretta ai ragazzi, ecco, mi piaceva con un po' di presunzione provare a firmarla e soprattutto evidenziare, ecco, alcuni aspetti, al di là della storia che è avventurosa in sé, quindi è un bel racconto tra virgolette bello per i ragazzi, quindi c'è uno che lotta in mezzo alle foreste sulle montagne, sbarcano in 12, conquistano un'isola, quindi di per sé è già un racconto per ragazzi al di là dell'ideologia, però ripeto, poi c'è un contenuto che secondo me è educativo al di là poi delle parti che vanno rigettate, non ne faccio un santo, però il discorso che dicevo prima della compassione, il discorso anche il valore dell'educazione, la Sierra Maestra non spara soltanto, insegna a leggere ai contadini, insegna a leggere ai ragazzini, e quindi ecco, ci sono dei principi che secondo me sono importanti, che i ragazzi devono sapere e conoscere e abbinare a questa icona che è conosciuta, e loro incroceranno per forza o su un pompaccio di un giocatore tatuato o su una bandiera o su un cappello, e quindi insomma questo è stato un po' il progetto. Quest'anno al Salone del Libro, al Bookstock Village, insomma lo spazio dedicato ai ragazzi, è stato un po' intitolato al tema dell'impegno, no? Dell'impegnarsi in qualcosa, nel combattere anche contro qualcosa, in favore di qualcosa. Come si fa a coinvolgere i ragazzi nell'impegno civile? Ma non credo che sia difficilissimo, proprio perché per età e per costituzione i ragazzi sono quelli più disposti a impegnarsi, a credere all'ideale, all'utopia. Io una decina di anni fa ho proposto un altro libro che ha avuto molta fortuna nelle scuole, che è quello su Giovanni Falcone, ed è stata sorprendente la risposta dei ragazzi, insomma come hanno accettato la sua battaglia ideale, come l'hanno amata, e quindi lo stesso Giovanni Falcone andava nelle scuole, Borsellino, perché sapevano che i ragazzi sono i primi soldati antimafia, perché sono i primi in grado di abbracciare la legalità, e solo un'educazione a lungo termine contro l'illegalità, contro la mafia, può irrobustire i cittadini di domani. Quindi anche Falcone sapeva, insomma, che le risposte migliori spesso arrivano dai ragazzi. Tu ripeti spesso che non esistono temi da adulti e temi da ragazzi, ma c'è un modo semplicemente diverso di scriverli, di farli approcciare. Qual è il segreto per catturare l'attenzione dei ragazzi? Dallo sport, la mafia, Che Guevara e così via? Ma io, insomma, diciamo un po' il mio, non lo chiamo segreto, però lo stile o comunque la chiave che ho scelto io è quella di un racconto sempre molto figurato, e quindi evitare al massimo le parole astratte e ricorrere a molti paragoni, molte immagini, come ho fatto per esempio per affrontare un tema che mi spaventava come quello della mafia. E credo che insomma se fai vedere un racconto poi i ragazzi lo apprezzano, quindi paragoni, metafore, e in questo lo sport mi aiuta tanto, soprattutto il calcio, che io uso come lingua universale, come esperanto. Non credo che esista un'altra lingua che mette in rapporto le generazioni. Se parli di musica un padre e un figlio non si capisca, insomma, Claudio Villa o Fedez, e invece se parli di calcio usi le stesse parole, e quindi io mi servo molto di questa lingua universale. Quando ho dovuto spiegare che cos'è un pool antimafia, allora dico: è come una squadra, ognuno ha il suo ruolo, c'è centravanti, c'è il giudice che organizza le indagini. Ecco, questa può essere una chiave che funziona. Questo era Luigi Garlando che ci parlava di L'estate che conobbi, il CE pubblicato da Rizzoli. E sempre per rimanere nell'ambito di libri per bambini e ragazzi, vi segnalo che da oggi, ogni sabato, con il Sole 24 Ore, ci sarà in allegato un volume della Biblioteca dei Ragazzi. Si tratta di libri per bambini dai 6 agli 11 anni che hanno vinto negli anni scorsi le diverse categorie del premio Andersen, che è il più prestigioso riconoscimento italiano appunto attribuito alla narrativa per ragazzi. Il primo volume in edicola è Mio nonno era un ciliegio di Angela Nanetti. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che potete seguirmi su Twitter e anche su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.